ragazzi con un altro rapper di periferia. Il suo nome da bulgista per gangelateria, o per gonade glabro, o per giovane giuria. Forse Giacomo, Gianluca o magari Giorgia. Tu mi dici Ghia, che io ti rispondo yeah. Ma ti dico per ora, lascia stare la mia nomea come Nea. Sto per dare il via alla mia epopea. Se aspetti un altro po' mentre vomito un'altra idea, blea. C'ho lo stile che ti manda in cancrena, e c'ho pure il cazzo che sa di pigna alla crema. Alla crema, no, qua la cosa non si spiega. Vabbè, c'ho lo scontrino, casomai lo cambio, che problema. Con la mano sulla leva del cambio, levati che cambio canale, mo m'arrabbio. Sto rapper del cazzo che già m'ha rotto il cazzo. Lo becco per strada e lo faccio fuori tipo Rambo. Gizzamelo, tu double gizzamelo, tu double gizzamelo, si double gizzamelo, double gizzamelo, tu double gizzamelo, si double gizzamelo, double gizzamelo, tu double gizzamelo, si double gizzamelo, double gizzamelo, si double gizzamelo, double gizzamelo, tu double gizzamelo, si double gizzamelo, double gizzamelo. Mi fai fuori come Rambo, ma che sei troppo blando. Cazzo devi fare, lascia sta, sei solo un nabbo per dabbo. Servono almeno due colpi in uno, tipo a tombola, che dopo il primo numero fai ambo. Sono fiero di essere terrone, ma in pratica ogni volta che mi giro mi si fottono la macchina. E non ti dico se mi chino, che mi capita, almeno c'ho un italiano da professore di ginnastica. Vabbè, lo metto, il mio dialetto è buffo, però c'ho il cazzo che sa di gelato a puffo, a puffo. No, qua la cosa non quadra, nah, è tutto regolare. L'effetto del Viagra mi va magra, se penso che in Italia con il rap ho la massima ambizione, cantare in qualche sagra. E ti rovino, non tiro più coco, ormai ti rovino, da che ho visto il mio nome sulle pagine del mattino. Gizzamelo, tu double gizzamelo, tu double gizzamelo, si double gizzamelo, double gizzamelo, tu double gizzamelo, si double gizzamelo, double gizzamelo, tu double gizzamelo, si double gizzamelo, double gizzamelo, si double gizzamelo, double gizzamelo, tu double gizzamelo, si double gizzamelo, double gizzamelo. Io non lo so, non la potevo fare pure io una cosa come la fanno tutti i rapper. Io so tosto, io so figo. No,